Parliamo con Veronica Cruciani, che dovrebbe essere in linea con noi. Ci sei, Veronica? Ci sono, buongiorno a tutti. Ben ritrovata. Grazie. Con te per parlare di Accabbadora al Teatro Quarticciolo, Teatro Biblioteca Quarticciolo, il 9 e il 10, cioè giovedì e venerdì prossimi. Uno spettacolo che è stato anche in altre tappe, sempre al Quarticciolo, di presentazione, se non sbaglio, vero? È stata presentata una lettura quest'estate. Ok, ok. Ma adesso presentiamo un'anteprima il 9 e il 10 al Teatro Biblioteca Quarticciolo. Poi ritornerà a Roma al Teatro India più avanti. Ok, allora ci racconti un po' come inizia tutta questa operazione? Ma inizia dalla lettura del romanzo di Michela Murgia, Accabbadora, pubblicato nel 2009, premio Campiello. È un libro che io ho amato molto e all'interno sono contenuti dei temi che desideravo riportare in teatro, quindi ho chiesto a Carlotta Corradi di fare una riscrittura di questo testo partendo dall'idea di mettere in scena Maria, la figlia adottiva di zia Bonaria. Ok, senti, ecco, per chi ci ascolta, di cosa si parla? Qual è la storia su cui vi siete incentrate? Ma è la storia del romanzo, parli, o la storia dello spettacolo teatrale? Perché la storia, diciamo, della Murgia racconta appunto una storia ambientata in un piccolo paese dove Maria, all'età di 6 anni, viene data a figlia anima a Bonaria Orrai, una sarta che vive da sola e che per l'occasione ogni tanto fa l'accabbadora. Accabbadora significa finire, uccidere, quindi zia Bonaria per pietà aiuta le persone in fin di vita a morire. E Maria cresce, come dire, nell'ammirazione di questa madre, dopodiché quando scopre questa cosa se ne va, scappa, fugge incontinente. Lo spettacolo teatrale parte proprio dal momento in cui invece Maria ritorna. Okay. Ritorna ed è appena tornata da Torino. Si trova zia Bonaria sul letto di morte e questo conflitto nel vedere questa madre adottiva che lei ha amato e che si amano reciprocamente, questo conflitto di vederla così e vedere il suo sguardo che gli chiede in qualche modo di mettere fine alla sua vita è proprio la cosa su cui io mi sono concentrata anche registicamente, cioè su cui ho messo, diciamo, il fuoco, questo conflitto che lei vive interiore di questo personaggio femminile, che poi nello spettacolo diventa un conflitto interiore perché è davvero proprio un dialogo tra due parti di se stessa, cioè non c'è davvero questa zia Bonaria, c'è, ma in qualche modo questo spettacolo racconta un po' il dialogo tra una figlia e il suo genitore interiore, tra due parti di se stesse, diciamo, tra sé e una parte di sé. Senti, c'è stata anche una forma di comunicazione, di scambio con Murgia? Sì, certo, oggi c'è un incontro al Teatro Biblioteca Quarticciolo alle 19, dove ci sarà anche lei. Lei ha letto il testo, gli è piaciuto molto e il testo è diverso perché ovviamente non riattraversa alcune parti del romanzo e incentra, diciamo, l'attenzione soprattutto su questo rapporto madre-figlia. Gli altri temi ci sono ma rimangono più marginali, però si è anche molto riconosciuta nell'operazione che abbiamo fatto, cioè ci ha detto che insomma è stato bello vedere gli occhi di altre donne che hanno insomma guardato questa storia in un modo anche diverso, perché Monica Biseddu appunto è più grande dalla Maria che Michela Murgia ha scritto, che era una ragazzina, quindi è come se fosse una Maria 20 anni dopo. Sì. Senti, oltre a questa focalizzazione sul rapporto tra le due donne, quali altre sono sostanziali le differenze tra la scrittura e la messa in scena? Ma io dico che questa è un po' la questione fondamentale, nel senso che c'è un po' un focus su quello, su questo rapporto madre-figlia. Okay. Il fatto che lei faccia l'accabbadora è secondario, cioè come in tutte le storie d'amore, questa è una vera storia d'amore dove ci sono i conflitti, c'è vicinanza, però c'è anche rabbia, quindi in qualche modo tutti i sentimenti che possono attraversare dei rapporti d'amore molto forti, molto molto. Poi credo che insomma io veramente volevo mettere in scena questo romanzo perché per me c'è anche un aspetto politico, perché comunque questa storia ci propone un modello alternativo di famiglia dove la madre non è quella biologica ma è adottiva, quindi un modello diverso di società, sì. E questo è un aspetto secondo me importante, certo, da certo. Sottolineare. Senti, dopo le due date al Quarticciolo che succederà? Andiamo a San Lazzaro, a Bologna, all'ITC di San Lazzaro, sì. Quindi comincia un suo percorso? Sì, sì, comincia la tournée. Ok, sì, ok. Senti, per quanto riguarda... Sarà a Roma a marzo al Teatro India. Ok, ok. Senti, a questo punto ti chiedo anche novità rispetto al Quarticciolo per questa stagione. Abbiamo vinto, l'abbiamo saputo ieri. Ah, fresca. Abbiamo fresca. Quindi te lo dico proprio, l'abbiamo saputo ieri sera, quindi te lo posso dire, è ufficiale, abbiamo vinto, quindi gestiremo il Teatro Biblioteca Quarticciolo per 2 anni, ci sarà, come dire, questa gestione del Teatro di Roma, di tutti i teatri, appunto Torbella Monaca, Scuderia Corsini, cioè di tutti i teatri di ex cintura, e... È questo, beh, non è poco, insomma. E allora a questo punto ci sentiremo per le prossime novità, Veronica. Va bene. Grazie a allora tutti. Ricordiamo l'appuntamento con Accabbadora giovedì 9 e venerdì 10, Teatro Biblioteca Quarticciolo. Baci, abbracci e buon proseguimento. Grazie, ciao. Ciao.